Professore, non mi dica che si sente male, eh? Come sta? Il telefono, eh? No, il telefono. Il telefono, dicevo. Ti piace vivere come vuoi. Sull'olio al supermercato ci sarebbe da rimanere qui tutta la giornata. Sicuramente la fonte di calore. Non vuole rimanere, vedi? Ha già messo le mani avanti, ha detto. No, gli chiediamo una sintesi per rimanere quanto necessario. Di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. È bastato un giorno in più di vacanza, parliamo del ponte del 1° maggio, capitato fortunatamente di venerdì, per scatenare lo stress da rientro, quella sorta di disagio che molti di noi avvertono quando, dopo un periodo di stacco, devono tornare alle attività quotidiane, lavoro, figli, colleghi, problemi, impegni, scadenze, eccetera. Ma a far aumentare il disagio non è solo il lavoro, ma anche il tragitto che dobbiamo compiere per recarci in ufficio. Una ricerca della Ford, che ha preso in esame un campione di 5.500 cittadini di 6 città europee, ha evidenziato come il 26% degli intervistati considera più stressante il tragitto casa-lavoro del lavoro stesso. A Roma, addirittura, sempre secondo la ricerca della Ford, il percorso di andata e ritorno da casa al lavoro è paragonabile ad un trasloco. Insomma, per un verso o per l'altro lo stress, lo sappiamo bene, fa parte della nostra vita e quindi dobbiamo imparare a farci i conti, a gestirlo. Ed è quello che ci aiuterà a fare oggi il nostro ospite, che è tornato a trovarci, il professor Piero Barbanti, primario, neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Ma nel frattempo iniziate a prenotare i vostri interventi 800 24 00 24 e siate pronti a mettervi in gioco, perché dobbiamo cercare di capire a che livello è arrivato il nostro stress, se è vicino a quello di guardia o l'ha già superato. Non stressatevi, perché l'importante, come si dice, è prenderne consapevolezza. Poi le soluzioni si trovano. Intanto procediamo per ordine, provate a rispondere a queste domande. In una scala da 0 a 10, a che livello è il vostro stress? Domanda numero 2, sotto stress rendete di più o andate in tilt? Insomma, è il vostro carburante o il vostro veleno? E cosa vi stressa maggiormente? La sostanza intesa come lavoro, famiglia, economia o lo strumento, la tecnologia quotidiana? Vi aspetto. E dal punto di vista dei denari, cara la mia Nicoletta, lo sai bene, c'è un argomento che ci provoca non poca ansia e stress. Questo è sicuramente la pensione, in particolare negli ultimi anni, dopo la riforma Fornero, pensiamo ad una pensione sempre più lontana, sempre più povera, per non parlare degli esodati. Fra i sacrifici richiesti da quella riforma, che ogni tanto rievochiamo, però uno è stato giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Si tratta del blocco dell'adeguamento all'inflazione per il biennio 2012-2013, blocco che aveva riguardato 5 milioni e mezzo di persone. Oggi vi spieghiamo bene cosa succede, che effetto ha questa pronuncia della Corte Costituzionale, cosa succederà, a che soluzioni pensa il governo per ridare indietro questo denaro che è tanto. E allora 800 24 00 24 per iniziare a prenotare le vostre domande e i vostri interventi sull'argomento. E allora parliamo di stress. Intanto il nostro numero verde, provate a raccontarci da 0 a 10 a che livello è il vostro, e se non siete in grado di dare un voto, provate a dirci se complessivamente lo stress è il vostro carburante. Notate infatti che vi aiuta a lavorare meglio, essere più performanti, no? Si dice così? Sì. Oppure lo percepite come un veleno che lentamente, giorno dopo giorno, vi fa ammalare, vi toglie energia, vi stanca. Oggi ci aiuta il professor Piero Barbanti. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, bentrovate, buongiorno. Professore, può essere un potente alleato se riusciamo a tenerlo sotto controllo, perché aiuta a rendere al massimo durante un colloquio di lavoro, un appuntamento importante, un esame, perché la concentrazione, no, aumenta e noi rendiamo. Ma quando diventa eccessivo si trasforma in un ostacolo per la salute e per il nostro benessere, tanto che proprio livelli alti di ansia e tensione possono causare le cosiddette malattie da stress o stress correlate. A farne la spesa è naturalmente la nostra qualità di vita. Lo stress ammala il corpo, invade i nostri pensieri e disturba le nostre relazioni. Ha queste azioni un po' trasversali nella nostra vita. È corretto, professore? Esattamente così. Se volessimo ricorrere a un esempio gastronomico, lo stress è il nostro peperoncino, meglio una spremuta di cervello, ma è un nettare da centellinare, perché altrimenti rischia di avere effetti negativi. Quando noi parliamo di stress non alludiamo a quella condizione benevola, benigna, favorevole che ci apre la mente e ci fa scattare i muscoli, ma pensiamo allo stress un po' cronico, quando noi, anziché guardare la realtà con l'occhio sonnecchiante di un usciere, di un ente parastatale, senza parlare male, parastato, eleviamo il nostro rapporto con l'ambiente a livello di un occhio vigile di una guardia giurata, o addirittura all'occhio allarmato di una guardia del corpo di un politico. Bene, questo è lo stress cronico, è parcheggiare la macchina cerebrale nel garage lasciandola accesa. Siamo sempre accesi, mai in off, e poi ci si presenta il conto. Quindi, professore, chi è stressato vive in una condizione di perenne allerta, è come se vivesse più vite contemporaneamente. Per questo poi alla fine siamo stanchi, rimaniamo senza energie, troppe cose da fare, a cui pensare, da organizzare, pianificare. E in fondo potremmo spiegare così, no? Quella sensazione di stanchezza e di apatia che ci prende nel fine settimana o all'inizio delle vacanze, che siamo tramortiti, no? Uno esce dal weekend e dice: sai che cosa? Che sono più stanco, Di prima. Vero, grazie. Deborah? È esattamente così. Io amo dire che la sensazione di rintronamento domenicale o da ponte o da weekend lungo è esattamente il ritmo del nostro cervello, il quale è nato per fare il ritmo del contadino, cioè per seguire e uniformarsi ai ritmi della natura, della giornata, ai nostri ritmi biologici. Ma come mai a volte ci sentiamo peggio il primo giorno di relax? Perché lo stress è di per sé analgesizzante. Madre Natura ci ha dotato di una reazione non solo mentale e non solo fisica, nel senso di una maggiore energia nello stress acuto, ma ci ha dotato anche di un meccanismo protettivo che è analgesico e antifatica. E beh, la realtà è che però questo acceleratore non può essere premuto troppo a lungo. E chi si senta nei primi weekend primaverili o estivi molto fiacco, non tema di avere la pressione bassa, sta probabilmente solo recuperando quella grande rush che in maniera indolore, apparentemente indolore, ha corso nelle settimane precedenti. Quindi, professor Barmanti, ai nostri ascoltatori possiamo dire e chiedere: come vi sentite nel weekend? Questa è un po' la cartina tornasole del nostro livello di stress e di che cosa ha bisogno il nostro cervello per recuperare. 800 24 00 24, noi oggi vogliamo prendere consapevolezza del livello di stress che abbiamo maturato, e per farlo ci sono tanti modi. Uno ve l'abbiamo suggerito attraverso una batteria di domande che vi abbiamo proposto in apertura, e lo potete leggere anche sulle pagine Facebook e su Twitter, ma potete anche usare la vostra creatività per visualizzare lo stress. Provate allora a descriverlo come un'immagine o con una metafora. Questo esercizio di visualizzare lo stress, professor Barmanti, viene suggerito e ci aiuta. Perché? Ma intanto ci aiuta a rendercene conto, perché uno dei grandi problemi dello stress è quello di trovarvisi immersi e di non rendersene conto. Posso dire come io lo immagino? Sì. Abitando a Roma avrebbe fatto pensare al traffico del raccordo anulare e quindi alla lentezza. Io invece, sempre per un paragone automobilistico, paragono lo stress alla pista di Indianapolis. Avete presente un anello? Sì. In cui giri sempre in tondo, devi andare veloce, curvi sempre dalla stessa parte, a seconda della rotazione oraria o antoraria, e o superi o sei fritto, cioè non ti è consentita la sosta. Ecco, stress uguale corsa in cui non ti puoi fermare, ancora più che stop and go, almeno per me, rende conto maggiormente come immagine di ciò che l'organismo e quindi la mente e poi il corpo vanno a soffrire. Allora, lavoriamo appunto sulle immagini che raccontano bene il quanto e come lo stress occupa la nostra vita e come lo percepiamo, perché ci sono persone che vivono proprio grazie allo stress, lo stress è per loro un carburante, per altre invece è un veleno, una minaccia. 800 24 00 24, sentiamo che tipo di immagine dà allo stress Andrea da Bologna, che salutiamo, al nostro primo amico all'800 24 00 24 oggi. Andrea, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Dai. Allora, aspettavamo questo, allora vada Andrea, benvenuto. Okay. Grazie. Allora sì, io sono molto vittima dello stress dovuto al ritmo lavorativo. Sì. Però volevo ricondurre il cappello introduttivo della vostra trasmissione di oggi per quanto riguarda il percorso in auto, il caso ufficio, diciamo. Sì. E io faccio tutti i giorni 200 km al giorno, quindi un importante tragitto, certo, di tempo. Devo dire che però quella è la parte meno stressante della giornata, proprio perché mi permette di ascoltare voi di Radio 24. Cioè è l'unico momento, grazie a questo tragitto piuttosto lungo, che mi permette di staccare la spina, diciamo, cerebrale. Siamo anche un po' terapeutici, insomma, meno male. Ha fatto di necessità virtù, Andrea. Esattamente, quindi io approfitto, diciamo, di questo tempo proprio per non concentrarmi, tra virgolette, su tutto quello che mi accadrà poi durante il giorno, che è decisamente invece stressante a livello lavorativo. Quindi non appartengo a quel 26% che ho sentito inizialmente. Nella ricerca che è stata effettuata sulle sei città europee, ma mi sembra che Andrea abbia un'ottima strategia, professor Barbanti. Direi di sì, credo che Andrea abbia anche delle buone strade, perché io che amo viaggiare in macchina per tragitti lunghi, anch'io ho la medesima sensazione di relax. Attenzione, ma Andrea quanti semafori incrocia? Perché se 200 chilometri, e mi auguro per lui, sono prevalentemente su autostrada o superstrada, riusciamo a inserire un nostro pilota automatico, non nella macchina ma nel nostro cervello, automatizzare il nostro gesto e in pratica staccare il cervello e riuscire a pensare a qualcosa. Quindi credo che il 26% si riferisca prevalentemente alle persone snervate da un traffico cattivo. Un po' a singhiozzo, quello con il semaforo, quello con la persona che ti taglia la strada. 800 24 00 24. L'immagine dello stress ci aiuta. Voglio leggere quella di Francesca. La mia idea di stress: essere immersi in mezzo al mare, toccando appena il fondo con delle onde che mi fanno continuamente andare sott'acqua. Professor Barbanti. Io mi riconosco abbastanza con Francesca. Attenzione a fare l'onda, avrebbe da pensare. Anche questo è un esempio estremamente calzante, l'idea della mancanza di aria. Francesca sostanzialmente questo dice, Andrea invece il ritmo. In ogni caso l'essere trafelati, il non avere tempo per le due funzioni fisiologiche fondamentali. Ovviamente il battito cardiaco sufficientemente lento per garantire una buona azione di pompa, d'altra parte la respirazione. Non a caso lo stress che nel cervello nasce colpisce molto frequentemente l'apparato cardiocircolatorio e respiratorio come sintomi immediati, la fame d'aria, il cuore in gola. Quindi sono due esempi molto diversi, molto belli ed estremamente rispondenti alla fisiologia dell'organo bersaglio dello stress. Sulle nostre pagine Facebook abbiamo chiesto agli ascoltatori di provare a fare un acrostico con la parola stress, e ci ha risposto Laura su Facebook. Tutti questi sorta di giochini aiutano a prendere consapevolezza dello stress, a renderselo un po' amico, a prendere un po' le misure. Laura su Facebook ci scrive: sono troppo responsabile e spesso sclero. ci aiuta questo acrostico di Laura, professor Barbanti, per raccontare come le persone poi reagiscono allo stress. C'è una reazione, possiamo dire, a livello mentale, e quindi irritabilità, mancanza di concentrazione, questi pensieri che si affollano, vorremmo staccare ma siamo presi da una sorta di frenesia, oppure un effetto che ha sul corpo, e quindi mal di testa, lo stomaco in fiamme, il sonno che viene disturbato. Sono due modi in cui lo stress si fa sentire. Ci sono delle situazioni in cui si fa sentire sia nel corpo che nella mente, che sappiamo che sono due facce della stessa medaglia. Ma professor Barbanti, perché in alcune persone lo stress ha più dei segnali, dei sintomi fisici, e altre invece più a livello mentale? C'è una sorta di predisposizione o sono diversi tipi di stress? Esiste certamente una predisposizione di tipo biologico, ma esiste anche una forma mentis, una rigidità a volte espressiva, che fa sì che alcuni canali siano bloccati, alcuni canali di espressione del conflitto, e se ne trovino altri, quelli somatici, che sono quelli nascosti, quelli del sistema nervoso vegetativo, sempre aperti o quasi sempre aperti in chiunque. Mi piace del racconto che fa Laura la R, cioè responsabile. Perché lo stress dipende anche dalla nostra forma mentale, cioè da quello che è il filtro cognitivo ed emotivo degli eventi. Ci sono persone che non sono stressabili da nulla. Se noi prendiamo, non so, una persona orientale che non sia dell'Oriente giapponese, dove lo stress è altissimo, prendiamo un indiano e lo portiamo nei nostri climi, lui non patirà così pesantemente l'incalzare degli eventi. Ed ecco quindi che questa è una delle componenti sulle quali è possibile lavorare, spesso in ambito psicologico, per ridurre i rischi di essere suscettibili allo stress, quello che viene chiamata la resilienza agli eventi. E in questo, in parte è culturale, in parte addirittura delle basi religiose, in parte è genetica, o come oggi si usa dire, epigenetico, cioè quella miscela incredibile tra DNA che tu hai e come l'ambiente nel corso del tempo ne modifica l'espressione. Andiamo a sentire Alessandra che ci chiama da Roma. Buongiorno Alessandra, benvenuta. Buongiorno. Eccoci qua, noi siamo pronte. Allora, io ho un problema che se mi aiutate a risolverlo sono contentissima. Io dal lunedì al venerdì vado come un treno, il weekend sono uno straccio, mi prendo tutte le cose possibili, immaginabili, mi drogo, tra virgolette, non è vero perché non sono vegetariana, eccetera. Però incomincio il venerdì a stare malissimo, senza forze, e lunedì sto una bomba. Non so se dipende dallo stress, però mi date un consiglio. Grazie Alessandra, devo dire ad Alessandra che è in ottima compagnia, ma il comune mezzo gaudio si dice. Sì. E molti ascoltatori ci scrivono più o meno anche le stesse cose. Si somatizza molto anche fisicamente tutto questo, no? Con herpes e varie manifestazioni. Mal di fisiche, testa, esatto. Insonnia. Allora, adesso non so se i mercati hanno lo stress o lo soffrono, però oggi è il loro tempo. Sì, quando sono un po' volatili. Intanto il professor Barbanti si prepara, perché sono davvero tantissime le persone che avvertono questa pesantezza del weekend, che ha un ritmo assolutamente diverso da quello che si riscontra durante il fine settimana. Ci aiuterà anche a capire il professor Barbanti che come leggere alcuni disturbi che pensiamo essere scatenati dallo stress, come ad esempio il mal di testa, come ad esempio l'insonnia. Qual è, no, la linea tra il fisiologico e il patologico, e quanto c'entra lo stress? Come fare a riconoscerlo? 800 24 00 24, subito dopo i mercati, dopo il richiamo di Deborah, il tema di denari, spazio alle vostre telefonate. Cuore e denari. Sappiamo bene che richiediamo sacrifici, ma speriamo che questi sacrifici siano compresi proprio in nome di quella possibilità di crescita, che si accompagnerà a un rafforzamento del lavoro. Ce lo ricordiamo bene quel 4 dicembre del 2011, se lo ricordano bene sicuramente anche Elsa Fornero, che in quel periodo era ministro del lavoro, e l'ex premier Mario Monti, che le era accanto, quando venne presentata questa riforma tanto ritenuta da quel governo decisiva, e in effetti lo fu, per uscire dalla fase di crisi, quanto discussa e contestata da tutti negli anni successivi. Un passaggio in particolare è stato dichiarato effettivamente illegittimo dalla Corte Costituzionale proprio in questi giorni, ovvero il blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici al costo della vita per gli assegni superiori a 3 volte il minimo IMSS. Rispetto alla sentenza della Corte, come sempre, ma sono perplesso: se non avessimo preso le misure necessarie sarebbe intervenuto il default del Paese o sarebbe arrivata la Troica. Questa è stata la difesa nei giorni scorsi di Mario Monti, ma noi oggi di questa novità torniamo a parlare a partire dalle 11.45, non dal punto di vista politico certamente, ma dal punto di vista delle ricadute pratiche. Cosa succede ai pensionati interessati a questo rimborso? Quanto prenderanno? Chi sono i 5 milioni e mezzo di pensionati a cui questa pronuncia della Corte Costituzionale interessa? 800 24 00 24, il numero verde per tutte le vostre domande. Ti distrugge lo stress e dimentichi il sesso. Ma la notte no. È vero, c'è anche questo spiacevole effetto collaterale dello stress. Non dormire. Sì. Allora, in linea con noi abbiamo ancora il professor Piero Barbanti. Professore, in linea con noi, sì? Pronto, eccoci qua. Sì. Vi abbiamo chiesto di provare a visualizzarlo, di raccontarlo attraverso un'immagine o una metafora, e molti di voi hanno accettato l'invito di usare la parola stress per fare un acrostico. Vado a leggervi quello di Matteo, che ci ha mandato su Facebook. Allora, ci scrive: sto trattenendo, restringendo emozioni, silenziosamente sopporto. Professor Barbanti, racconta bene la situazione. Direi che questo acrostico si riferisce anche ad Alessandra, l'ascoltatrice romana, perché il fatto che, e così rispondo ad Alessandra, dal lunedì al venerdì paradossalmente stia bene nello star male, cioè nell'essere stressata, e abbia la nuvoletta di Fantozzi il fine settimana, è spiegabile alla luce di un termine che in inglese recita hyper arousal, cioè l'essere ipervegli. L'essere ipervegli può essere vista come una virtù, in parte lo è, senza dubbio. C'è da dire che nell'iperveglia un pochino conta l'attitudine del soggetto, il lavoro che svolge, la dedizione che ci mette, però un pochino va a seminare anche l'uso di sostanze voluttuarie, penso al caffè e a queste energy drinks che ormai spopolano. Magari Alessandra non prenderà né l'uno dell'altro, però attenzione, il sentirsi così stonati il fine settimana non è altro che la discesa di un gradino troppo alto. Il problema non è il piano terra, cioè dove è relax, ma è il terzo piano a cui siamo saliti, anziché un semplice gradino, durante la settimana per via di tutte le nostre attenzioni. Quindi chiederei agli ascoltatori anche di stimare quanti gradini secondo loro scalano durante la loro settimana, perché poi è difficile scendere, ed è difficile scendere anche alla sera quei gradini. L'insonnia del soggetto stressato che cerca di vincere con calmanti di ogni genere andrebbe vinta la mattina, salendo di meno, non alla sera cercando uno scivolo che ti porta in una condizione di relax assoluto. Quindi bisogna, sembra una cosa facile, ma è difficilissima, riprenderci un po' i nostri spazi e il nostro tempo. Sì, io a proposito di tempo vorrei ricordare una cosa che a noi tutti forse sfugge, cioè il fatto che il cervello sia una macchina lenta. Qua qualcuno sobbalzerà al volante, ma come? Il cervello è la cosa più veloce che esista, la velocità del pensiero. In realtà, attenzione, noi abbiamo una parte velocissima, che è quella che hanno anche gli animali, anzi gli animali ce l'hanno meglio di noi. Pensiamo al riflesso, alla capacità di scattare. Provate a sfidare una mosca quando uno cerca di prenderla, dei riflessi fulminei. Ebbene, attenzione, il cervello invece evoluto, la neocorteccia, quella che ci rende gli esseri superiori nelle specie viventi, è il cervello lento, quello del ragionamento, del differire l'istinto, del dire ci pensiamo domani. Beh, noi dovremmo fare del culturismo del cervello lento. Invece, e magari ne parliamo dopo con la tecnologia, il nostro stile di vita e anche un certo tipo di multimedialità vanno a fraseggiare con la nostra parte più istintiva, permettetemi di dire meno nobile, con la quale facciamo i conti, perché quella parte lì, una volta sveglia, decide lei quando spegnersi. Professor Barvanti, quindi per dare dei suggerimenti concreti, ne stanno arrivando molti anche dai nostri ascoltatori che, misurandosi con lo stress, nervo scopertissimo direi, ecco, hanno cercato di conviverci, prendere il giusto ritmo. Possiamo dare, ci aiuta a così con qualche consiglio mirato per provare a scendere lentamente da quel piano, da quei gradini troppo in cui ci siamo arrampicati troppo con la nostra vita così stressante? Sì, intanto il mio discorso si rivolge in primo luogo agli stressati che non sanno di esserlo. Allora, banali prove. Quello di ruotare, magari se non sono alla guida, la testa verso destra e verso sinistra e sentire il collo con i muscoli tesi, prima test. Secondo, di respirare molto profondamente, sentire quasi male al diaframma perché è ipercontratto e non si respira. Questa è già la cartina di tornasole di chi alberga lo stress senza saperlo. Allora, il collo, girate il collo e respirate a lungo. In effetti noi siamo sempre bloccati, respiriamo in alto e non di pancia, e questo ce la racconta molto su quanto siamo tesi e contratti e quindi pieni di stress. Quindi vuol dire che siamo un'ottava sopra, parafrasando termini musicali, e rendiamoci conto di questo. E poi alcune cose estremamente semplici: regolarità. Allora, intanto non pensiamo di salvare il mondo con la nostra opera, con 5 tablet, assolutamente. Quello salva il mondo dei medici, perché finiscono poi tutti nelle cure mediche. È brutto a dirsi, ma è la realtà. Sì. È la realtà. Creare e mantenere dei ritmi. Non si possono mantenere tutte assieme, perlomeno alcune. Perché vede, il problema sono le condotte a cluster sbagliate, e cioè correre, conseguentemente dormire poco, conseguentemente mangiare male, conseguentemente saltare i passi. Bene, il creare degli spazi, perché noi abbiamo, compresa la pennichella, microsonno, 5 minuti nella poltrona o in una sedia, chiudendosi la stanza, ci sono studi scientifici che dimostrano uno sleep benefit di circa 4-5 ore, consente di ricaricare. Consente di raffreddare il cortisolo, che è l'ormone dello stress, che sale a livelli altissimi, e poi una volta che rimane in giro decide lui dove e quando fare i danni. Quindi consiglio, dicevo, molto semplice: mangiare sempre, non saltare i pasti, mangiare sempre, costi quel che costi, portandosi le cose da casa, magari incrociando meno facce noiose all'ora di pranzo e chiudendosi nella propria stanza, inserire attività fisica, anche la più banale, purché sia regolare. Questo è un primissimo approccio per rivedere la nostra giornata e fare sì che noi non appaltiamo più le nostre energie al dio tablet o all'essere sempre connessi, perché ricordiamoci che il cervello non è nato per questo e non ci seguirà mai. Voglio leggere il messaggio di un ascoltatore che mi è piaciuto molto, ma riporteremo molti delle vostre definizioni, delle vostre immagini sulla nostra pagina, vero? Stiamo facendolo, sì, su Facebook. Per me lo stress sono lenti che distorcono la realtà. L'ho risolto quando ne ho preso coscienza e ho deciso che mi voglio bene e non avrei permesso al lavoro di rovinarmi la vita. Andiamo a Daniela da Modena. Buongiorno Daniela. Buongiorno. Volevo chiedere al professore se è un ragazzo, io non parlo per me, il mio stress è stato abbastanza negli anni giovanili, forse di più di adesso che ho avuto un po' di coscienza di me stessa, quindi mi conosco meglio e so anche come un po' frenare lo stress. Mio figlio, 25 anni, lavora in una multinazionale, vi potete immaginare, partita IVA, obiettivi da seguire, quindi molto molto sotto stress. Per 4 anni è andato tutto meravigliosamente bene. Salute, sport, eccetera. Ha smesso di fare sport per nuovi motivi di tempo, che non sono ovvi, ma insomma, comunque ci sono. Ora, da quasi un anno a questa parte, ha cominciato ad avere del disequilibrio, come se avesse mancanza di equilibrio, non tanto vertigini, proprio ovviamente instabilità, impauriti tutti, siete andati a vedere se la centralina dell'equilibrio andava bene, avete fatto tutto delle indagini, tutto negativo, posto? Eccetera. Però questo ragazzo, nonostante ha iniziato anche una cura psicologica, comunque questo non vive bene, ecco, non vive bene, ecco, perché lo stress avvelena. Professor Barbanti, in un minuto un consiglio non si può dare, ma forse un'indicazione, una riflessione che aiuti un po' a prendere una direzione. Una spiegazione ed un consiglio. La spiegazione è che lo stress in acuto ha come alfiere l'adrenalina, battito cardiaco accelerato, muscoli che scattano e così via, ma il suo alfiere in tempi lunghi è il cortisolo, dicevamo prima, che determina una serie di aspetti sul nostro metabolismo e sulla nostra salute piuttosto deleteri. Il consiglio certamente non è quello di licenziarsi da un lavoro meraviglioso, ma attenzione, noi dobbiamo riscoprire la cultura, e lo dico la cultura mediterranea, cioè il sapere che quello che noi stiamo facendo, permettetemi la parola molto forte, è una carnevalata. Cioè, o noi riusciamo ad affrontare i nostri doveri quotidiani con un occhio, in parte sorridente e smaliziato, o altrimenti, se crediamo fino in fondo a quello che facciamo, e va di bene, sarà meglio farlo benissimo visto i tempi, noi finiamo per identificarci nel personaggio che ci chiedono di essere. Invece io consiglio di recitare, ma con un filtro culturale che ci faccia sapere che la nostra serenità e la nostra vita sta al di fuori, altrimenti noi rimaniamo stritolati in un meccanismo che all'epoca della pensione, quando e se arriverà, ci sputa fuori. Ma sei come l'assist è stato perfetto, professor Barbanti, magnifico. La ringraziamo per essere stato con noi, la invitiamo a fare un giretto sulla nostra pagina, perché troverà tutti i messaggi che sono arrivati, le metafore, le immagini che ci hanno regalato i nostri ascoltatori. Pensavo grazie. Che volessi invitarlo a compilare il questionario per il nostro progetto speciale Cuore Denari Expo 2015. Potrebbe. Allora, perché non va a dare un'occhiata, professore? Lo farò quanto prima. Partiamo grazie. Domani, quindi intanto però può monitorare un pochino. Grazie professor Barbanti, grazie alla prossima, buona giornata. Adesso è tempo di sentire cosa succede sulle strade italiane e poi ci immergiamo nel mondo delle pensioni, che qua ogni giorno ci presenta una novità, tra poco. Cuore e denari. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai. Bigliettini con gli auguri mi scriverai, o bottiglie regalerai. Insomma, qui se non parliamo di pensioni almeno una volta a settimana noi non siamo contente. La cronaca d'altronde ci offre spunti in continuazione. La settimana scorsa neanche avevamo terminato la nostra puntata sulla busta arancione dell'INPS, che in realtà è una piattaforma informatica e si chiama La tua pensione, ed ecco pronta una sentenza della Corte Costituzionale che cosa ha fatto? Ha dichiarato l'illegittimità del mancato adeguamento all'inflazione per il biennio 2012-2013 di tutta una serie di trattamenti pensionistici. Allora, subito in questi giorni sono partiti molti calcoli sull'effetto di questa decisione della Consulta. Quanto peserà alle casse dello Stato? Perché si stimano recuperi che potranno andare dai 4.700 euro comprensivi appunto per pensionati con assegni che valgono fino a 4 volte il minimo, a più di 10.000 euro per pensionato con assegni che valgono 10 volte il trattamento minimo. È una questione complessa che hanno però capito molto bene i diretti interessati, perché qua stiamo parlando di 5 milioni e mezzo di persone in Italia, cioè i pensionati a cui devono essere restituiti questi soldi. Però tutti quanti abbiamo il diritto di conoscere bene i termini di questa faccenda, e allora noi abbiamo interpellato il nostro esperto preferito sulle questioni previdenziali, il dottor Fabio Venanzi, che salutiamo. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Che in questi giorni ha scritto tantissimo sul tema sulle pagine del Sole 24 Ore, cercando proprio di spiegare a tutti i lettori quali sono gli effetti di questa decisione della Corte Costituzionale. Intanto, naturalmente, parte anche la nostra convocazione per i nostri ascoltatori, che possono chiamare l'800 24 00 24. Avete delle curiosità sull'argomento? Siete fra questi 5 milioni e mezzo di pensionati? Lo è un vostro familiare? Raccontatecelo, cercheremo di capire cosa succederà. È tutto ancora abbastanza nebuloso. Questa mattina molti giornali ipotizzano che il governo sia al lavoro, lo scrive anche il Sole 24 Ore quest'oggi, su un decreto legge sospensivo da varare entro maggio, con l'obiettivo di evitare il fenomeno dei ricorsi che sono già pronti a scattare dal 1 giugno, congelando quindi gli effetti della sentenza della Consulta su questa mancata rivalutazione. Poi naturalmente c'è il nodo restituzione comunque di queste somme, che potrebbe essere fatto con un meccanismo di rateizzazione su base o triennale o quinquennale. Stiamo comunque ancora parlando di ipotesi e di ipotesi che sono lanciate questa mattina da vari giornali, sulla base naturalmente però di quanto indicano ambienti tecnici dei vari ministeri interessati, Ministero del Lavoro, Ministero dell'Economia. Dottor Venanzi, però partiamo un po' dall'inizio per spiegare ai nostri ascoltatori i termini della questione. Tutto inizia, ancora una volta, dobbiamo sempre rievocarla, con la riforma delle pensioni Fornero-Monti, che aveva bloccato, appunto, come dicevo prima, per 5 milioni e mezzo di pensionati l'indicizzazione della pensione. Che caratteristiche hanno i pensionati che erano stati prescelti appunto per questo intervento? L'unico parametro era quello dell'importo della pensione, l'importo naturalmente al lordo della tassazione fiscale. Si era stabilito che l'importo superiore a 3 volte il trattamento minimo, che per capirci nel 2012 era pari a 1.443 euro lordi, quindi vuol dire che il trattamento minimo era di 481 euro, non potessero più accedere all'adeguamento del costo della vita, quindi alla cosiddetta perequazione pensionistica, quindi all'adeguamento all'inflazione, e quindi si sono visti di fatto per il biennio 2012-2013 congelare l'importo a quello che risultava in pagamento alla fine del 2011. È da premettere che già in passato avevamo un'adeguazione comunque parziale per quei trattamenti pensionistici che risultavano superiori a determinate soglie. La particolarità di questa riforma invece è che aveva stabilito che al di sopra di quella fascia, appunto, di 1.443 euro, non si potesse accedere a nessun adeguamento dell'importo, neanche in misura parziale. Non costò peraltro poco a queste persone quell'intervento, perché in quel periodo l'inflazione in media era per il 2012 del 2,6%, per il 2013 dell'1,9%. Magari fosse stato un provvedimento preso negli anni successivi, quando l'inflazione è andata invece scemando, forse a queste persone sarebbe costato un po' meno. Questo di conseguenza significa che anche allo Stato la restituzione costerà un po', dottor Venanzi. Esattamente, mi permetto di segnalare soltanto che nel 2012 l'adeguamento definitivo fu del 2,7, perché 2,7, gli importi, che le percentuali che hai detto erano provvisorie, e il definitivo del 2013 fu pari al 3%. Ah, quindi, sì, è vero, sì. Quindi parliamo alla fine di quasi un 6% di mancato adeguamento, perché non ci dobbiamo dimenticare che l'effetto della perequazione incide anche sulla determinazione degli importi pensionistici futuri. Certo. Allora, sì, intanto stavo controllando gli sms degli ascoltatori, perché c'è chi chiede già subito se questa restituzione sarà automatica, se bisognerà fare una domanda, esatto, all'INPS. Non esiste nessun criterio ancora stabilito da nessuno, perché come dicevo prima c'è naturalmente allo studio anche il provvedimento che dovrà prendere il governo per ottemperare a questa pronuncia della Corte Costituzionale. Non sarà applicato nessun automatismo, ci spiega Gabriella da Rapallo, ho letto questo, ma dovrebbe essere il pensionato a fare richiesta di restituzione. Ma qualunque sia il meccanismo, io credo che sarà più vicino a quello dell'automatismo, dottor Venanzi. Non so lei, certo, dal punto di vista tecnico che ne pensa. Poi sarà fatto magari in rate di 20 anni, però sì. Scusa, dovrebbe, no? Noi già abbiamo l'esperienza di quello che è accaduto con il contributo di solidarietà, che è stato già restituito nell'estate, se non ricordo male, 2013, che fu dichiarato anch'esso incostituzionale. La ricostituzione delle pensioni avvenne d'ufficio, quindi il pensionato non dovette fare nulla. Esatto. Lei dal punto di vista tecnico, in qualità di tecnico dell'argomento, dottor Venanzi, che ne pensa di questa decisione della Consulta? Sicuramente deve far riflettere il fatto che l'incostituzionalità sia stata decisa a maggioranza con il voto decisivo del Presidente, almeno da quello che si è capito. Quindi non c'era unanimità. Esatto, e soprattutto c'è l'altra questione che alcuni diciamo interessati alla materia stanno comunque portando alla ribalta, e che comunque nella Costituzione è previsto il pareggio di bilancio statale, quindi se la norma è stata a suo tempo inserita, prevista proprio per garantire, non ci dobbiamo dimenticare la situazione nella quale ci trovavamo nel 2011, per garantire una certa stabilità o comunque un non peggioramento della situazione finanziaria, diciamo che i pro e i contro potrebbero trovare dei valide supporter sia in un senso che nell'altro. Qualche costituzionalista, come racconta Marco Rogari stamattina sul Sole 24 Ore, fa notare che la pronuncia non si può impugnare davanti alla Corte di Giustizia europea. Insomma, vedremo quale sarà il tema del ricorso. Su questo noi quello che interessa capire intanto è chi è interessato a questo provvedimento, cosa dovrà fare, se dovrà fare qualcosa per ritornare nella legittima proprietà di questo denaro. C'è Daniele da Bologna, che sentiremo a questo punto dopo il giornale radio. A tra poco. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Lasciali fare che stanno volando. Vuoi partecipare al nuovo tour di Enrico Ruggeri? Ascolta Radio 24 e potrai assistere al concerto nella tua città. Sarà domani, oppure mai. Pezzi di Vita Tour, dal 18 aprile, nelle più importanti città italiane. Info su radio24.it. Cuore e denari. Ed ogni giorno tutti al lavoro, dall'idraulico al barbiere, muratore, giardiniere. Passano gli anni ad aspettare di pigliare la pensione, non dover più lavorare. È una mazurka questa? Mi sbaglio, un valzer? Oh, che cos'è? No, perché mi pare che si chiami valzer della pensione. Sarà la canzone. Un valzer. Ecco qua, balliamoci allora, che meglio. Eccoci ritrovati in diretta, parliamo di un tema che ha reso molto felici oltre 5 milioni e mezzo di pensionati, forse in realtà quelli che rientreranno in possesso di una somma legittima sono un po' meno, ma sono comunque quei pensionati interessati dalla norma Fornero-Monti, che è stata giudicata incostituzionale, che dovrà essere restituita, di cui dovrà essere restituita l'indicizzazione perduta nel biennio 2012-2013. Sempre con noi Fabio Venanzi, esperto di questioni previdenziali per il Sole 24 Ore, che sta aiutandoci ad orientarci in questa giungla delle conseguenze che questa pronuncia della Corte Costituzionale produce. Intanto molti ascoltatori all'800240024, ne sentirei subito uno perché lo avevamo tenuto in sospeso. È lì a Bologna che ci aspetta. Esatto. Daniele, buongiorno. Daniele, benvenuto. Daniele, buongiorno. Salve Deborah. Buongiorno, ci dica tutto Daniele. Io le volevo solo portare il mio esempio, sì. Adesso c'è un po' di ritorno sul telefono, mi sentirà male. Comunque, io sono andato in pensione il 1 gennaio 2011, pensione 1612 euro, siamo al maggio 2015, 1628. Lei è stato uno degli interessati quindi al blocco della rivalutazione, Daniele? Secondo me sì. Detto questo, dottor Venanzi, allora intanto, come dire, a spanne potremmo dare un giudizio su Daniele o meno. Peraltro, se dovesse essere considerato che Daniele ha il diritto allo sblocco del blocco della rivalutazione, no, dottor Venanzi? Praticamente il calcolo da quando parte? Allora, nel caso suo partirebbe dal 2012, bisognerebbe capire se gli importi che ha detto Daniele sono lordi o netti. Ah, perché penso che abbia fatto un ragionamento sul netto, Daniele, perché parla di un percepito. Perché se fosse un importo netto, immagino che parliamo di trattamenti pensionistici che si aggirano attorno a 4-5 volte il trattamento minimo. In questo caso lui ha perso la perequazione del 2012 e del 2013, o meglio non ne ha goduta fino adesso, però dal 2014 e dal 2015 non ci dobbiamo dimenticare, perché questo non lo abbiamo detto prima, che comunque con le leggi di stabilità che si sono succedute nel corso del tempo comunque hanno previsto un parziale recupero. La rivalutazione era stata ripristinata? E in maniera parziale, fino a 3 volte il trattamento minimo, sempre il 100%, quindi in misura piena. Però dobbiamo dire che nel 14 e nel 15 l'inflazione dal 3% che avevamo lasciato nel 2013 siamo scesi vertiginosamente all'1,10 del 2014 e addirittura a uno 0,30% nel 2015, quindi veramente briciole. Per trattamenti superiori a 4 volte il trattamento minimo le leggi vigenti hanno previsto un adeguamento al 75%. Quindi se andassimo a fare i conti sull'ultima perequazione, un 75% di 0,3 significa poco più dello 0,22, quindi veramente un non nulla. Allora, dottor Venanzi, prima di tornare a lei, rispondendo anche alle osservazioni di un'altra ascoltatrice che si è messa in ascolto, in collegamento, che è Fiorella da Modena, vorrei far sentire lei, Nicoletta e i nostri ascoltatori un altro contributo che noi abbiamo raccolto proprio questa mattina. In questo momento si sta svolgendo a Napoli la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione della Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro, che quest'anno appunto si svolge nel capoluogo partenopeo il 12, il 13, il 14 maggio. Questa mattina abbiamo raggiunto Alberto Brambilla, presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Itinerari Previdenziali, che di questa giornata è il promotore e l'organizzatore. Lo abbiamo avuto ospite tante volte. Alberto Brambilla è il papà della riforma del TFR ed è l'estensore proprio materiale di quella legge, era sottosegretario al welfare quando Roberto Maroni varò quella riforma molto importante. Allora, voi trovate già sul nostro sito e nella pagina di Cuore Denari l'intervista completa ad Alberto Brambilla. Noi ora ne ascoltiamo un frammento. Il professor Brambilla ha condiviso con noi una riflessione su questo periodo caldo che riguarda la previdenza pubblica, tra i vari argomenti che abbiamo trattato anche tante volte qui: TFR in busta paga, busta arancione, adesso la sentenza di cui stiamo parlando. In questo commento Brambilla non dimentica che tra poco potrebbe aggiungersi, diciamo intorno a settembre, un'altra questione importante alla lista. Sentiamolo. Il tema pensioni fa parlare di sé esattamente dal 1992, per la verità se ne parlava anche 15 anni prima, però non si è concluso più di tanto. Dal 92 se ne è cominciato a parlare, quello che possiamo dire è che però in questo paese, come è vero che manca un po' di politica industriale, un po' tanto, manca anche una visione d'insieme di quello che può essere il welfare del futuro. Infatti la tassazione sui fondi pensione, il TFR in busta paga denotano che non è ben presente, soprattutto nei decisori politici, che il welfare integrativo, quindi le pensioni complementari, ma anche l'assistenza sanitaria integrativa, sono fondamentali per un paese come il nostro, che spende poco più del 50% di tutta l'intera spesa pubblica per assistenza, pensioni e sanità. E poi adesso c'è questo problema della consulta, che è soltanto però il primo, perché a fine settembre probabilmente avremo per la terza volta che il contributo di solidarietà, per come è stato posto dalla legge e con le motivazioni che sono state addotte, probabilmente verrà ritenuto ancora anticostituzionale, per cui l'INPS, dopo aver mandato le lettere ai pensionati che gli avrebbe tolto questo 5, 10 o 15%, gli rimanderà per la seconda volta la lettera che dice: ti restituirò in rate questo 5, 10, 15%. E noi saremo pronti a fare tante puntate di Cuore Denari anche su quell'argomento. A proposito di contributo di solidarietà, dottor Venanzi, per restituire ai pensionati che ne hanno diritto questa cifra di cui parliamo questa mattina, che deriva dalla decisione della Corte Costituzionale di sbloccare il blocco delle perequazioni, bla bla bla, tutta la questione tecnica che abbiamo già spiegato poco fa, il governo potrebbe essere al lavoro sul un altro prelievo di solidarietà e praticamente potrebbe essere che per coprire questa necessità nuova finanziaria il governo andrebbe a prendere questo denaro sulle pensioni superiori ai 5.000 euro lordi mensili, quindi per quei pensionati che percepiscono circa 3.300 euro netti, a loro volta appunto andando a prendere dei soldi con un altro contributo di solidarietà per coprire questa rateizzazione per la nuova esigenza. Adesso io spero di essermi spiegata correttamente per gli ascoltatori, che non so in realtà se è stato così, ma insomma potrebbe essere un'altra bella questione complessa anche questa. Sì, l'importante, come la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare sia con la sentenza 70, che è quella oggetto della trasmissione, sia con sentenze precedenti, è che gli interventi sulle pensioni o comunque in genere sulla spesa pubblica devono essere temporanei e finalizzati nell'obiettivo. Quindi se il governo, il legislatore dovesse riuscire a buttare giù una norma comunque che riesca a rispettare questi due parametri che la Corte Costituzionale ritiene diciamo imprescindibili, onde evitare poi di cadere nuovamente in un giudizio di incostituzionalità, forse è la volta buona che ci se la fa ad andare ad intaccare quei trattamenti pensionistici, definiamoli troppo generosi o comunque non in linea con un'evoluzione diciamo lineare. Sì, infatti il prelevo di solidarietà eventualmente sarebbe sugli assegni alti retributivi. Sì, lì obiettivamente ci potrebbero essere dei margini. L'importante è che il risparmio, o meglio la decurtazione che questi pensionati poi subiscono, di fatto serva a un obiettivo ben preciso, e l'intervento deve essere limitato nel tempo. Noi purtroppo dal 2007, giusto per non andare troppo indietro nel tempo, abbiamo avuto diverse volte blocchi alle perequazioni o comunque delle limitazioni affinché fossero riconosciute delle perequazioni parziali, e sulle perequazioni parziali la Corte Costituzionale non ha mai detto nulla, perché è una scelta, è una facoltà che ha il governo e il Parlamento. Sull'annullamento invece della perequazione, siccome lo status di pensionato viene visto giustamente dalla Corte Costituzionale come uno status di persona possiamo dire poco tutelata, o comunque essendo arrivata a fine carriera non ha più possibilità di integrare il proprio reddito. La pensione, non ci dobbiamo dimenticare, che è vista come una retribuzione differita, cioè una parte di retribuzione che io avrei dovuto godere negli anni in cui ero un soggetto attivo, mi viene restituita poi al momento della quiescenza. Quindi l'importante è tutelare sia gli obiettivi di finanza pubblica, che quelli sono imprescindibili, importanti, ma anche i diritti che poi si sono cristallizzati o che potrebbero cristallizzarsi in testa ai singoli soggetti. Senta, dottor Venanzi, c'è un'ascoltatrice che ci scrive, un'ascoltatrice e un ascoltatore, ascoltatrice, perché parla di unica erede, parla di sua mamma che è deceduta a febbraio. Evidentemente per questa signora vi era stato appunto il blocco della rivalutazione in questo biennio che abbiamo indicato poco fa. Questa ascoltatrice si chiede se si può rivalere, ma penso che non essendo più in vita questo trattamento pensionistico non ci si possa rivalere in alcun modo. Mi verrebbe da rispondere che comunque la ricostruzione avverrà e poi l'ascoltatrice potrà accedere ai rati non riscossi dalla madre con le solite procedure relative alla successione, quindi comunque occorrerà ripresentare una dichiarazione di successione integrativa per poter riscuotere questi ratei, visto che comunque l'avente diritto è la mamma. Chiarissimo. Allora, che abbiamo? Allora, abbiamo Fiorella che ci stava aspettando. Esatto. E poi mi sono accorta di Modena, Francesco. Poi c'era Francesco che ci riporta questo tema. Aspetti, sì. Fiorella, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Eccola. Mi sentite? Sì. Sì. Okay. Allora, buongiorno a tutti. Quello che io volevo dire è questo. Io quando fu fatta questa la riforma Fornero non ero assolutamente d'accordo. Mentre sarei stata era in compagnia invece ero molto d'accordo, e invece mi ricordo non a voi ma a qualcuno, so che sono intervenuti in una trasmissione, per fare un prelievo forzoso, così come fu fatto per l'entrata in euro. Io disse, se noi se si decide un prelievo forzoso, partendo, io faccio parte del blocco, ma io ero d'accordo di rientrare, capito, voglio dire, in questo prelievo forzoso, partendo magari dai 1.500-1.600, insomma, tanto per così buttare una cifra, e in percentuale, per cui chi più aveva più metteva, e che si dice per un prelievo forzoso 1-2 anni, cioè questa cifra ci serve per questo. Questo è quello su cui io ero d'accordo, e sono nel momento in cui venisse ritoccato le cose, questo secondo me è l'unica maniera per andare a avere una certa cifra, e che venga definita per che cosa, quello che stava dicendo il esatto Fabio. Quindi era giusto questo, questo blocco, diciamo, della rivalutazione secondo la sua visione, Fiorella? No, non era giusto il blocco in questa maniera, perché quello che era giusto è fare un prelievo che si chiama, come fu fatto, lo dicevo prima, per le entrate in euro, ed era un prelievo forzoso. Allora, Fiorella, sì, abbiamo capito, diciamo che però con il senno di poi ormai quello su cui possiamo ragionare è sostanzialmente il fatto che la rivalutazione è stata bloccata, che adesso la Corte Costituzionale questo blocco lo rimette in discussione, che si crea una bella voragine nelle casse dello Stato, che deve trovare le risorse per ridare indietro questo denaro. Dove andando a prendere questo denaro? Nelle tasche di altri pensionati, quelli che prendono di più, per cui in sostanza sono sempre un po' quelli che pagano poi le conseguenze di tutta questa giungla, come l'ho definita prima. Sentirei Francesco da Firenze. Francesco, però forse sul tema degli eredi abbiamo già detto qualcosa prima. Sì, esatto. Sì. Pronto, mi sente? Sì, la sentiamo. Può ribadire la domanda. Ecco, sì, appunto, avete già risposto, perché avevo telefonato semplicemente per la curiosità di sapere se gli eredi hanno diritto al rimborso, diciamo, di quanto il defunto non aveva avuto di pensione a seguito delle distribuite della legge Fornero. Ma mi sembra che il vostro ospite abbia già risposto. Dottor Venanzi, sì, allora possiamo magari ribadire un po' le modalità con cui questa rivendicazione può essere fatta. Guardi, io parto dal presupposto, così come accade per i deceduti in corso d'anno, che comunque il ratio di tredicesima maturato viene riscosso dagli eredi successivamente al decesso dell'avente diritto, previa presentazione della dichiarazione di successione. Quindi mi associo a questo ragionamento qui, e la risposta che ho dato prima alla collega era proprio inteso in questo senso, nel senso che il diritto comunque è sorto, naturalmente non può riscuotere lui perché non c'è più, e quindi gli eredi legittimi accederanno alla discussione di questa integrazione, della perequazione. Noi non ci dobbiamo dimenticare però, Deborah, questa è una cosa importante che volevo dire prima, che noi abbiamo letto e abbiamo parlato di recuperi a partire da 4.700 euro, ma in realtà quella è la soglia base dalla quale si parte per chi ha un trattamento minimo vicino a 4 volte il trattamento minimo, quindi parliamo grosso modo di chi ha una pensione lorda di 1.900 euro. Ecco, chi ha una pensione appena superiore 3 volte il trattamento minimo, quindi sopra 1.500, avrà diritto a degli arretrati, ma non avrà diritto a questa somma così. Esatto, e come scriveva il collega del Sole 24 Ore, Davide Colombo, sempre sul Sole di questi giorni, nella soluzione da trovare da parte del governo per i rimborsi bisognerà anche tenere conto dell'aumento che questi determineranno sulla base imponibile IRPEF, dottor Venanzi. Verosimilmente, non dipendendo né dall'INPS né dal pensionato, le somme che dovrebbero essere riconosciute agli aventi diritto dovrebbero scontare la tassazione separata, quindi comunque una tassazione di maggior favore, questo anche per evitare poi un aumento della progressività dell'imposizione. Però insomma, per come mettiamola come vogliamo, in ogni caso rientreranno nel portafoglio di molti italiani un po' di soldini. Mi verrebbe da dire, dottor Venanzi, altro che bonus da 80 euro, questa sì che è una bella manovra rilancia consumi, anche inconsapevole. Ecco, possiamo dire che se dovessero essere ridati tutti quanti insieme questi soldi, di fatto la stima che abbiamo visto, le proiezioni che abbiamo letto, si attestano, neanche a farla apposta, sullo stesso costo del bonus Renzi, perché parliamo verosimilmente, ora miliardo più, miliardo meno, ma stiamo sui 10 miliardi di pensionisti. Se tutti venissero ributtati sull'economia reale, sarebbe altro che una manovra di stabilità. Adesso sì, è chiaro che non avverrà secondo questo automatismo, anche perché poi bisognerà vedere come in realtà rientreranno nel portafoglio degli italiani. C'è comunque presumibilmente una rateizzazione che dovrà essere anche un pochino lunga. Dottor Venanzi, noi tra un minuto ci dobbiamo salutare. Ci sono delle informazioni su tutta questa faccenda un po' complicata di questa mattina che non abbiamo dato, ma che vale la pena trasmettere ai nostri ascoltatori? Guardi, in questa fase sicuramente non conviene fare nessuna azione nei confronti dell'INPS, anche perché sappiamo che i rati pensionistici vengono messi in pagamento come, diciamo, spesa fissa, come partita fissa, quindi non è che l'azione di uno possa in qualche modo avvantaggiarlo rispetto a chi magari rimane fermo, perché quello che verrà riconosciuto a tutti, con automatismi che abbiamo già visto esistere nel passato. Poi naturalmente bisognerà attendere cosa prevederà il governo, se emanerà effettivamente il decreto legge. Questo decreto ponte, come è stato ribattezzato. Di cui abbiamo fatto cenno, e naturalmente come l'INPS, congiuntamente al Ministero del Lavoro, deciderà di muoversi per la restituzione, per la rateizzazione comunque del, diciamo, del maltolto. Un'altra novità che peraltro arriverà a giugno, quindi siamo pronti sul tema pensioni con un altro argomento a breve, è il riallineamento di tutti i pagamenti pensionistici, il primo di ogni mese. Attualmente circa 4 miliardi di prestazioni sono erogate il 10 di ogni mese, e quindi siamo pronti anche ad approfondire questa questione. Fabio Venanzi, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie, a mandiamo grazie anche Fabio Venanzi come i nostri ascoltatori sulla pagina di Radio 24, trovate il link per fare un questionario e quindi partecipare a Cuore Denari Expo, in che cui parte noi domani accompagneremo a cambiare il vostro stile alimentare, ma naturalmente anche a risparmiare, a spendere meglio e a sprecare meno. Andate, ci sono 8 profili diversi, riconoscetevi, fate il questionario e intervenite. A domani.